12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Come vi avevo anticipato la scorsa settimana, nella puntata di oggi cercheremo di capire come funziona il lavoro nel mondo della moda e soprattutto cercheremo di capire cosa vuol dire fare lo stilista. Proveremo a farcelo raccontare da Camilla Giacomini e Filippo Vido, giovani stilisti. Il mondo della moda da sempre attira moltissimi giovani e creare vestiti e modelli è il sogno di molti, ma la creatività non basta. Per diventare stilisti affermati occorrono competenze specifiche e sicuramente tantissima esperienza. Chi vuole intraprendere questa carriera deve quindi conseguire in primis un diploma di scuola media superiore o una laurea a indirizzo abbigliamento e moda. Dopodiché va detto che la professione di stilista è fatta di contatti e conoscenze, quindi più si frequenta l'ambiente meglio è, in quanto sono maggiori le possibilità di conoscere gente che possa poi tornare utile in futuro. Quindi già nel periodo in cui si studia bisogna cercare di essere presenti ad incontri e sfilate, di proporre idee alle persone giuste, di osservare molto e apprendere quante più cose possibile su questo ambiente. Oltre alla scuola, che di solito prevede già dei periodi di tirocinio in aziende o case di moda, ci si può proporre direttamente per uno stage magari durante il periodo estivo, oppure cercare qualche sarta o artigiano da cui imparare i segreti del mestiere, cimentandosi concretamente nella produzione di abiti. Altra opzione è quella di frequentare qualche corso per diventare modellisti. In gergo si parla di fashion designers, che devono essere sempre informati sulle ultime tendenze in fatto di moda, leggendo riviste di settore, guardando in TV i programmi più trend appunto sulla moda. Bisogna insomma tenere sempre gli occhi aperti, essere curiosi e disponibili ad ogni novità. Una volta poi terminato il corso di studi e lo stage formativo, il passo successivo è quello di specializzarsi in un settore specifico della moda. Normalmente si pensa all'abbigliamento, ma non è l'unico settore, ad esempio si sta sviluppando quello degli accessori o dei costumi da bagno. Insomma, è importante monitorare il mercato alla ricerca dei segmenti liberi da poter occupare. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. E ora proviamo a capire meglio cosa vuol dire essere uno stilista dando il benvenuto alla nostra prima ospite Camilla Giacomini. Ciao Camilla, benvenuta a 12 minuti. Grazie mille, buongiorno a tutti. Camilla, ci racconti chi sei e di che cosa ti occupi esattamente? Certo, io sono una stilista che dopo vari anni in cui ho lavorato per altre aziende ho deciso di fare la pazzia di avere un mio proprio marchio. Il marchio si chiama Reale, facciamo tutto made in Italy. Dico pazzia perché a oggi veramente iniziare con un budget molto ristretto a creare qualcosa di nuovo è veramente difficilissimo. Assolutamente, il periodo in effetti sappiamo che non è dei migliori. Ma Camilla, creare un abito che cosa vuol dire esattamente? È un percorso veramente difficile. Da quando uno va in negozio e compra un abito vede solo questo aspetto finale, ma alla fine per farlo bisogna innanzitutto procurarsi ovviamente i tessuti, gli accessori, per accessori intendo i bottoni, le zip, e anche questa non è una cosa semplice perché tutti ovviamente vogliono vendere grosse quantità e noi piccolini magari a volte ci troviamo costretti a comprare grossissime quantità che poi non vengono usate. Poi si va da una modellista con il disegno, quindi la modellista realizza questo cartamodello che poi diventa abito e viene provato, e dopo varie prove esce il modello giusto. Quindi tutto ciò porta anche un grande dispendio di energie e di soldi ovviamente, prima di arrivare al capo che io posso vendere e produrre in larga quantità. Assolutamente. Camilla, a livello di formazione, qual è stato il tuo percorso per arrivare a fare oggi appunto la professione di stilista? Allora, il mio percorso è un po' diverso diciamo dal solito, perché io ho studiato lettere a Venezia e mi sono laureata in storia dell'abbigliamento, che poi non è che si connetta molto con la professione in sé di stilista. Durante l'università ho frequentato un corso di stilista dove andavo di sabato e domenica, e finita l'università ho fatto un master a Milano alla Domus Academy. Dopodiché mi sono buttata proprio a capofitto sul lavoro, quindi ho lavorato per varie aziende, ho fatto anche dei mesi, per esempio, l'operaio in un'azienda per imparare proprio bene le tecniche di stampa, di maglieria, di ricamo, insomma. Io ho sempre preferito molto la pratica, quindi non ho mai lavorato in studi dove si basava più tutto sul disegno, ma ho sempre voluto vedere immediatamente realizzato ciò che veniva pensato. Ecco, ecco Camilla, e quindi se dovessi dare un consiglio a un giovane che sognasse di diventare stilista, che cosa diresti? Allora, direi di queste scuole che ci sono, e sono molte, direi che sono importanti, ma sono veramente solo il primo scalino. Sicuramente sono importanti più per i contatti che per quello che viene insegnato, quindi vanno proprio sfruttate al 100%. Dopodiché il consiglio è di buttarsi proprio sul lavoro, perché non c'è nessuna scuola, secondo me, in questo campo in particolare, che ti insegni poi quello che vai a fare effettivamente. Quindi buttarsi, anche se ovviamente all'inizio non ci sono proprio grandi ripercussioni economiche, e per imparare veramente bene. Poi, in un secondo momento, quando c'è una certa professionalità, allora là è giusto anche pretendere qualcosa dal datore di lavoro, ma all'inizio buttarsi a lavorare, diciamo, tanto. Di fare un po' la gavetta, ecco, di partire dalle basi, sì, per poi crescere un po' alla volta. Esattamente. Camilla, io ti ringrazio per essere stata con noi 12 minuti e in bocca al lupo per il tuo lavoro e per il tuo marchio. Grazie mille a voi, grazie. E ora a tutti. Ci fermiamo per un breve intervallo musicale e poi torniamo a parlare della professione dello stilista. So it's over. This time I know it's gone. So Dodici minuti. il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti. Nella puntata di oggi stiamo parlando di professione stilista e nella prima parte della puntata abbiamo provato a farci raccontare un po' come funziona questo mondo dalla nostra prima ospite Camilla Giacomini. Ora diamo subito il benvenuto a Filippo Vido, che ci racconterà la sua esperienza in un settore specifico della moda. Ciao Filippo, benvenuto a 12 minuti. Bene, ciao Giovanna. Filippo, ci racconti esattamente cosa fai e cosa vuol dire essere stilista appunto nel tuo settore, che insomma adesso scopriremo qual è. Bene, allora io di specifico faccio lo stilista, ma lo stilista di calzature, ovvero io abito qui a 90 Padovana, dove il settore della calzatura negli ultimi anni ha avuto, con il boom economico, una grossa crescita delle calzature, e io mi occupo di tutto quello che riguarda la progettazione, quindi il disegno sulla carta della calzatura, da poi trasportare sulla forma, e quindi dopo ci si occupa di tutto quello che riguarda anche la linea dei tacchi, la scelta del pellame, e quindi diciamo tutta la parte anche tecnica per quanto riguarda dopo il disegno trasferire l'idea su il campione. Quindi sì, diciamo insomma che tu ti occupi di tutto il processo, cioè proprio dall'ideazione della scarpa, del modello, della forma, sì, alla scelta dei materiali, alla progettazione del campione proprio fatto realmente, che dopo quando andrà in produzione insomma lo verrà sistemato a livello commerciale per contenere anche i costi. Certo, Filippo, a livello di formazione, che percorso hai seguito per arrivare appunto a fare il lavoro che stai facendo oggi, e quali sono secondo te le competenze che bisogna avere per svolgere questa professione? Ecco, beh, io sono un caso un po' anomalo, se devo dire la verità, Giovanna, nel senso che io fino agli studi dell'obbligo ho studiato ragioneria, quindi nulla a che vedere con il settore appunto del design della calzatura. Dopodiché ho fatto delle brevi esperienze lavorative, fino a che a 25 anni mi sono iscritto al Politecnico Calzaturiero, che è un percorso di 3 anni, una scuola che appunto c'è a Vigonza. È una scuola che ho frequentato solo il sabato, per 3 anni a 8 ore ogni sabato. Alla mattina si faceva il livello tecnico e al pomeriggio si studiava la teoria, e dopo 3 anni ho conseguito il diploma di modellista base. Dopodiché con questo diploma al terzo anno ho inviato dei curriculum e ho iniziato a lavorare su diversi studi qui in zona. Ecco Filippo, quindi insomma un percorso specifico appunto per questo settore della moda, che ti ha portato appunto ad acquisire delle competenze tecniche ma anche teoriche, insomma, certo, di studio dell'ambito. Ecco Filippo, se dovessi dare un consiglio ad un giovane che volesse intraprendere questa carriera rispetto a come muoversi e quali opportunità concrete ci potrebbero essere, cosa ti sentiresti di dire? Beh, io la prima cosa che mi sento di dire oggi come oggi, per qualsiasi persona che si affaccia al mondo del lavoro, indipendentemente che sia questo dello stile, è quello che di intraprendere un lavoro perché questo lavoro che si intraprende ti piace, perché con tutte le difficoltà che ci sono oggi anche nel nostro settore e nel mondo del lavoro in generale, la passione è la prima cosa che riesce a farti ottenere comunque dei risultati e delle soddisfazioni, perché questo poi è un mondo che e un lavoro che dà soddisfazioni comunque dopo un po' di tempo, quindi all'inizio bisogna comunque ingranare, capire, e bisogna avere tanta esperienza. Quindi il consiglio che io posso dare a un giovane è quello di affiancarsi, sì, con passione e anche con la pazienza di dover capire che poi per avere dei risultati ci vuole un po' di tempo. Certo, bisogna fare un po' la classica gavetta, no? Certo, Filippo, io ti ringrazio moltissimo per essere stato qui con noi a 12 minuti e in bocca al lupo ovviamente per il tuo lavoro. Bene, grazie di tutto, un saluto anche a te Giovanna. 12 minuti a cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Per chi ha intenzione di intraprendere il percorso di studi per diventare stilista, vi segnalo l'Accademia del Lusso a Treviso, che organizza master, corsi post diploma, corsi professionali e corsi brevi. Per informazioni www.accademiadellusso.com. Lo IUAV a Venezia, che attiva il corso di laurea triennale in design della moda, arti visive e teatro. Per informazioni www.iuav.it. Il corso di laurea triennale in costume e moda dell'Università di Firenze. Per informazioni il sito è www.moda.unifi.it. L'Accademia Italiana, con sede a Firenze e a Roma, che attiva corsi di laurea accreditati da importanti università del Regno Unito, corsi master e corsi brevi. Inoltre attiva programmi di scambio con università negli USA e nel mondo e programmi affiliati in Asia che riguardano design della moda, arredamento, product design, gioiello, grafica e fotografia. Per informazioni www.accademiaitaliana.com. Al Politecnico di Milano il corso di laurea in disegno industriale con indirizzo moda. I posti sono limitati, si entra superando un test d'ingresso. Per informazioni www.polimi.it. Sempre a Milano, l'Università IULM attiva corsi specifici nel campo della moda e del design. Per informazioni potete scrivere a rp@iulm.it. E ancora a Milano, l'Università Privata IED, che ha anche sedi a Venezia. Per informazioni www.ied.it. Infine, vi segnalo l'Università di Bologna, che attiva il corso di laurea triennale in costume e moda e corsi specifici post laurea. Per informazioni il sito è www.unibo.it. E per oggi è tutto, anticipazione sulla prossima puntata, nella quale, per rimanere in tema, parleremo di chi della passione per i vestiti ha fatto un lavoro, ovvero della professione di personal shopper. Ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! Dodici minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.